Sì, pronto, ciao a tutti. Ciao. Vi racconto più o meno quello che è successo 10 giorni fa ormai, era il 13, la notte del 13. E alle 4 di mattina molti compagni d'Italia, ma nello specifico tre a Perugia, due compagni e un compagno, sono stati prelevati dai ROS, coordinati dal generale Ganser, che come tutti sappiamo, se non sappiamo è bene, sappiamo. Lui sì, ha una condanna a 14 anni definitiva. Certo, vabbè, però e quindi a quel punto altri compagni hanno invece ricevuto la visita per delle perquisizioni, sono stati portati via con tutte le cose che sono scritte sui giornali, quindi sono stati portati via come prova della loro estrema pericolosità, delle mollette per i panni, delle spillette, dei chiodi. E a quel punto, ecco, sono stati trasferiti nei vari istituti penitenziari, e questo è. La situazione è pesissima, ma non tanto e non soltanto per l'azione repressiva, quanto appunto per l'assurdità sia del teorema e per come la posta, come la loro azione, come l'azione appunto di tutto un sistema si alza nei confronti di ragazzi che poi alla fine l'unica cosa che hanno fatto è dare una risposta altra a una soluzione per risolvere una crisi che tutti i giorni mostra la violenza vera, insomma, di un sistema che sta probabilmente implodendo. Cioè. Quindi quello che noi oggi vorremmo sottolineare è come noi innanzitutto non abbiamo paura, né i compagni che ci hanno arrestato, come ci hanno fatto venire dal carcere, che continueremo a dare risposte riguardo a che tipo di futuro e che tipo di percorsi vorremmo costruire, che non la strategia di costruire un nemico ad hoc o di alzare la tensione la conosciamo bene, ma che sicuramente, insomma, non fermerà né noi né ci fermerà nel coinvolgere sempre più persone in questi percorsi di conflitto. Senti, a distanza di 10 giorni si sa che gli avvocati sanno qualcosa di come, cioè l'interrogatorio c'è stato e che cosa emerge, cioè che tipo di montatura sta emergendo? Guarda, l'interrogatorio per i compagni c'è stato e loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati sanno in realtà molto poco, perché è tutto molto nebuloso, hanno le carte, ma per poterle ritirare tutte tra l'altro c'è bisogno di fare tutto un iter burocratico molto lungo. Da quello che sappiamo è che il teorema accusatorio è enorme, è molto grande, nel senso che i compagni si accusano di essere membri appunto di una cellula perugina che fa parte di questo fantomatico FAI, e di essere responsabili appunto di vari punti, poi tutti appunto ancora non li sappiamo, soltanto per sentirlo dire, quindi aspettiamo anche che ci sia la dichiarazione ufficiale. Certo è che c'è il 270 bis e certo è che uno di loro, Alessandro, è accusato di essere a capo della cellula perugina che coordinava le altre in Italia. Quindi appunto il teorema è molto molto molto molto grosso. Di fatto quello che loro hanno in mano è niente. Le due compagne, ad esempio, sono state il reato che effettivamente gli si imputa e che è più certo è quello di aver attaccato uno striscione, di aver fatto delle scritte. E questo basta perché siano ritenute in carcere già da 10 giorni, non possono comunicare con nessuno, sono in regime di semi-isolamento, quindi è l'assurdità, la cosa che ci lascia essere fatti. È la mostruosità dei reati associativi, per i quali non c'è nemmeno bisogno per l'autorità giudiziaria di avere delle prove di fatti specifici, ma semplicemente di partecipare a una ipotetica e non dimostrata associazione. È chiaro, questo è la comodi di ha deciso, insomma, di portare avanti. Infatti il 270 bis è grave, deriva ovviamente dal codice Rocco, quindi è una struttura del codice fascista e che serviva per tenere in prigione appunto gli antifascisti, anche se non avevano fatto assolutamente niente, e questa cosiddetta Repubblica Democratica se ne avvale a piene mani, perché sì, in realtà evidentemente chi comunque lavora per far sì, insomma, che ci possa essere un minimo di consapevolezza, un minimo di risposta rispetto a certe dinamiche così democratiche deve essere trattato esattamente come venivamo trattati sotto un regime più dichiaratamente fascista. Certo. Senti, quindi però è importante che oggi pomeriggio quindi ci sarà una risposta da parte dei compagni e delle compagne di Perugia. Quindi ci vuoi raccontare di questa manifestazione di questo pomeriggio? Certo, la manifestazione, ecco, noi abbiamo deciso di organizzarla perché ci sembrava il minimo, anche perché Perugia è da un po' di tempo al centro di una risposta repressiva che ha avuto appunto qualche giorno fa il suo punto più alto e drammatico, ma sono mesi che sono arrivate denunce per quello che per la manifestazione contro la riforma Gelmini che ci fu nel 2010, e ce ne sono arrivate altre per tutte le mobilitazioni no TAV. In più l'altra sera c'è stato anche un altro fatto che è grave, perché tre ragazzi sono stati arrestati nel centro storico semplicemente perché avevano avuto un comportamento non conforme a quelle che sono regole predeterminate. Quali sono le... hanno provocato la polizia che presidia il centro storico ormai da più di un mese e sono stati arrestati per lesioni e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Accidenti. Quindi noi oggi appunto daremo questa risposta che cercherà appunto di coinvolgere e intercettare tutti i soggetti possibili, proprio per mostrare che Perugia non ha paura e Perugia vuole riprendersi la possibilità di vivere la città, di poter mostrare il suo dissenso politico in città, di poter mostrare, di poter avere una socialità altra che non sia solo quella mortificata in città. E quindi faremo questo corteo che inizierà alle 4. Purtroppo il corteo sarà molto più limitato rispetto alle nostre richieste, perché la polizia chiaramente ci ha dato moltissime restrizioni, una delle quali è quella che non potremo arrivare nel centro storico, perché sembra che il sindaco abbia deciso che lì non possono esserci più manifestazioni politiche. Quindi vorremmo sosteneremo anche che nel centro la città insomma è di chi la vive e di chi cerca di costruirci relazioni e di costruirci la propria vita, non può essere soltanto una vetrina per i privati o un posto da essere militarizzato. Certo. E quindi stileremo fino a Borgo 20 giugno, dopodiché lì ci sarà appunto durante il corteo, ci saranno interventi aperti. E alla fine del corteo cercheremo un attimo di rilanciare la situazione, perché vorremmo che questa manifestazione sia più che altro un punto di inizio e non un punto di fine, una fine insomma di un percorso. Mm-hmm. Un percorso che ci riporti a crescere sempre di più sia nella risposta che nella radicalità di questa risposta.